infelice Zoraida, credi Ergippo tuo sposo, allor chi te costrinse con frode occulta il nodo, allor fui lieto or disperato. Ergippo è sposata altra bella, fa d'estremo furor toccare il segno a questa principessa, ed io mi sento vinto dal fier rimorso,